Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Sono prevalse, diciamo così, le pressioni di diverse associazioni di categoria, le quali hanno chiesto un rinvio, diciamo, di una settimana prima di prendere una decisione definitiva per quanto riguarda il quarto conto energia. Così si è conclusa la conferenza Stato-Regioni di oggi. Tuttavia, Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, è qui con noi questa sera per spiegarci, io credo comunque, quali sono le loro intenzioni. Buonasera Saglia, bentornato Mr. Kilowatt. Buonasera a voi. Io le chiederei, come prima cosa, insomma, due o tre obiettivi di fondo che voi vi proponete come governo di raggiungere con questo quarto conto energia. Allora, noi vogliamo creare un sistema che possa essere duraturo nel tempo. Ci rendiamo conto che la decisione che abbiamo assunto anche in maniera repentina di fermare la macchina per guardare nel cofano, che ha creato indubbiamente difficoltà al settore. Proprio per questo vogliamo mantenere gli impegni che lo stesso ministro Romani ha preso, cioè quello di una decisione rapida. Noi abbiamo proposto un testo. È un testo che noi riteniamo equilibrato, innanzitutto perché dice che c'è un sistema stabile fino al 2017, diciamo, che quindi darà la possibilità di introdurre anche in Italia un modello che è quello tedesco, che è considerato da tutti il modello, diciamo, più solido per consentire gli investimenti. Questo modello ovviamente però non entra in vigore da subito, ma dal 1 di gennaio del 2013, perché c'è da smaltire tutte quelle domande che erano state presentate, che hanno, diciamo, beneficiato dal cosiddetto salva Alcoa e che hanno destato qualche preoccupazione nel governo, perché ovviamente raggiungeremo poi nei fatti l'obiettivo che ci eravamo posti dal 2020, cioè di 8.000 megawatt installati di solare fotovoltaico già alla fine del 2012. Allora, per questa ragione vogliamo capire quanto tutto questo inciderà nella bolletta dei cittadini e delle imprese, perché l'altra faccia della medaglia sono ovviamente tutte quelle imprese, diciamo, energivore, che ovviamente stanno attenti anche al centesimo, giustamente, perché per loro è un fattore produttivo. È un centesimo moltiplicato per vari milioni di volte, insomma. Esattamente. Diciamo così. Quindi dobbiamo cercare un equilibrio. Pensiamo di averlo trovato con un periodo transitorio nel quale la tariffa cosiddetta incentivante diminuirà, anche se in maniera non significativa, non comunque drastica, e in modo da poter accogliere tutte le domande che sono state presentate, e soprattutto per avviare una progressiva salita sui tetti, cioè il sistema che noi abbiamo congegnato è un sistema che di fatto renderà, diciamo, meno appetitosi gli investimenti a terra, che purtroppo hanno creato anche molte discussioni, difficoltà con il sistema agricolo in particolare, per spostarci sui capannoni, sui tetti delle case e quindi portare il contributo su questo tipo di impianti. Ieri il governo ha sostanzialmente ritirato il programma nucleare. Si parla anche di rifare un piano nazionale d'azione sulle rinnovabili. Sul fotovoltaico, l'ha detto anche lei in apertura, c'è stato un discreto balletto. Ci si domanda a questo punto qual è la strategia energetica del governo. Guardi, siamo in buona compagnia, cioè credo che tutto il mondo oggi si stia interrogando su dei parametri diversi, cioè la vicenda di Fukushima e le vicende nel Mediterraneo hanno cambiato i paradigmi. Io credo che noi avevamo un programma abbastanza leggibile, che era quello appunto della diversificazione delle fonti e del tentativo di centrare gli obiettivi europei. Dall'altro, ovviamente dobbiamo cercare di avere un sistema che sia economicamente sopportabile per il sistema industriale. Ecco, su questo non c'è dubbio, però io, come dire, osservo una cosa. Andando a vedere per esempio il piano nazionale attuale, abbiamo per esempio un obiettivo nel geotermico che personalmente trovo quasi incomprensibile. 200 megawatt al 2020 sono pochissimi, quando l'Italia, molti dicono che abbia un potenziale più alto. Cioè, non è mancata un po' una fase di studio approfondito del potenziale italiano sulle varie fonti, come, quanto, dove? Allora, il piano d'azione nazionale, come ho detto, noi l'abbiamo presentato come era previsto il 30 giugno scorso. Certo. Oggi ci sono degli scenari completamente diversi, quindi non sarà un peccato aggiornarlo e ripresentarlo a Bruxelles. Accanto a questo dobbiamo recuperare per quanto riguarda il piano sull'efficienza energetica, perché su questo punto infatti, era la prossima domanda. Si può e si deve fare molto di più. Su quali siano le fonti che si possono, diciamo, mettere in campo, è chiaro che l'esplosione dell'utilizzo del solare fa saltare i conti anche sulle altre fonti, quindi dobbiamo ritrovare un equilibrio. È chiaro che un paese che prevede un programma nucleare e un paese che non prevede un programma nucleare ha due strategie energetiche radicalmente diverse. Noi ci eravamo, tra virgolette, illusi con rinnovabile nucleare di poter ridurre la dipendenza dal gas e su quello abbiamo fondato le nostre politiche. Oggi questo credo che per un po' di tempo sarà sostanzialmente impossibile, quindi dobbiamo riprendere in mano anche il capitolo gas rispetto all'infrastrutturazione del paese. Dunque, capitolo efficienza energetica, sono in molti a ritenere che non ci sia la volontà di prolungare nel 2012 le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, che pure insomma sembra che abbiano funzionato molto bene. Le chiedo se lei me lo conferma e qual è in tal caso la strategia alternativa che avete in mente. Allora, intanto il 55% è una misura molto adeguata per questo tipo di politiche. Posso dire che per quanto mi riguarda certamente mi batterò perché questo sia rinnovato anche negli anni a venire. E bisogna però creare le condizioni perché la filiera industriale che c'è in Italia possa esprimere tutte le sue potenzialità anche dentro al sistema edilizio. Non può che esserci dentro al piano che stiamo costruendo e ci sarà un investimento significativo sull'edilizia pubblica e in particolare sugli edifici della pubblica amministrazione perché sono spesso i più inefficienti e quelli che hanno peggiori performance. Sì. Noi sosteniamo che l'erario non deve considerare esclusivamente l'uscita della detrazione, ma a quel momento anche la generazione di nuovo gettito, sia perché emerge, diciamocela chiara, emerge anche un'evasione fiscale che purtroppo in certi settori c'è e che con una detrazione fiscale significativa emerge, e poi ovviamente l'IVA e tutto quello che ne consegue in termini di nuovi investimenti. Grazie, sottosegretario Saglia. Grazie a voi.